Abbiamo vicino. Corre l'entusiasmo di quando ero bambino. Felice anche solo di girovagare per Torino. Andare alla ricerca di vinili rari. Per non pensare giorni troppo amari. Per finta di non capire che non sarebbe durata sempre questa situazione. Che non avrei avuto sempre una giustificazione. E la mia mente comunque mai si stanca di sognare di tornare. E gli anni 90 dicono la vita inizia a 40 anni. Inizia a 50 anni. Cazzate, la vita vera è quella che si fa a 20 anni. Ricordi come salite in fitte da un coltello. E non è vero che invecchiare sia poi così bello. Sto bussando ma so che non mi aprirai. Anche tu sai che quelle notti non dovevano finire mai. I giorni non torneranno mai. Un giorno il coglione. Stati che non dovevano finire mai. Sensazioni che non dovevano finire mai. Emozioni che non dovevano finire mai. Sensazioni che non dovevano finire mai. Sogni che non dovevano finire mai. Amori che non dovevano finire mai. Viaggi che non dovevano finire mai. Pace frasi che non dovevano finire mai. Che non perdi l'occasione, ma alla fine le che fa, che fa, che fa.